Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Napolitano frena sul presidenzialismo e preme per le altre riforme. Servono proposte concrete, dice. Strappo di Netanyahu non sarà a Washington per il vertice sul nucleare. Al-Qaeda attentati per i mondiali di calcio, minacce anche per la nazionale italiana. Nuove critiche del Vaticano sulle politiche di immigrazione. Gli accordi tra Roma e Tripoli violano i diritti. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. Questi dunque i nostri titoli, ma apriamo il giornale radio andando a Parigi, dove sta per iniziare la conferenza stampa di Silvio Berlusconi e Nicolas Sarkozy per il vertice italo-francese. Ci colleghiamo con l'inviato del Sole 24 Ore, Gerardo Pelosi. Gerardo, quali sono le novità? Buongiorno a voi. Il Presidente del Consiglio Berlusconi e il Presidente francese Sarkozy stanno entrando in questo momento nella sala stampa dell'Eliseo per la conferenza stampa finale del 28esimo vertice bilaterale. 20 gli accordi o le dichiarazioni congiunte nel settore del nucleare, della difesa, del ferroviario, della cultura e del Mediterraneo. Il punto di forza di questo 28esimo vertice è sicuramente la cooperazione nel settore nucleare, almeno 7 accordi quadro tra i governi, accordo sulla sicurezza nucleare, ma anche lettera di intenti tra Ansaldo Energia e EDF Enel, una lettera di intenti tra Ansaldo Energia e la francese Areva, una lettera di intenti tra la Techint e l'Areva e un'altra tra la Cirten e l'Areva. Nel settore della difesa una dichiarazione comune sulla sicurezza e la difesa, il ministro La Russa con il suo omologo ha firmato anche un accordo per creare una brigata alpina italo-francese e nel settore dei trasporti una dichiarazione sul rilancio della cooperazione ferroviaria e i collegamenti alpini. Per la cultura un accordo sulla ricostruzione post-sismica dell'Aquila e nel Mediterraneo una dichiarazione sull'Unione per il Mediterraneo. Ecco, in questo momento il presidente francese sta parlando. Grazie dunque a Gerardo Pelosi, vi riferiremo naturalmente nelle prossime edizioni dei giornali radio, anche se ci saranno dichiarazioni di Silvio Berlusconi sul tema del giorno, che continua ad essere quello delle riforme, dopo le parole del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, sulle quali ci riferisce invece Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno, nuovo appello nel giro di 24 ore del Capo dello Stato, ieri l'invito di Napolitano affinché la legislatura in corso non sia sprecata, oggi il Presidente della Repubblica si rivolge alle forze politiche e chiede di fatto uno scatto di reni, che si esca dalla fase delle anticipazioni per arrivare a proposte concrete, ma ascoltiamo Napolitano. È augurabile, ecco vorrei dire, che si esca al più presto da anticipazioni e approssimazioni di cui non si sa a quali sbocchi concreti, a quali proposte impegnative, a quali confronti costruttivi possano condurre. Sul presidenzialismo invece il Capo dello Stato invita alla cautela, è bene tenere conto, spiega, dell'esperienza e dei tentativi falliti degli ultimi 15 anni. Altro capitolo, le riforme socio-economiche, tra quelle non più procrastinabili, dice ancora Napolitano, ci sono fisco, sicurezza sociale, ricerca e giustizia. L'intervento del Capo dello Stato è apprezzato intanto da maggioranza ed opposizione, è un richiamo alla responsabilità della politica, dice dal PDL Bocchino. Sentiamo Bocchino. I cittadini hanno bisogno soprattutto della riforma del fisco, del mercato del lavoro e della previdenza. Dobbiamo pensare a quale Italia costruire nel futuro e non solo al dibattito e alle beghe della politica quotidiana. Bene, Napolitano, dicono dal Partito Democratico, critico Di Pietro che chiede al Capo dello Stato che invii alle Camere un messaggio sulla crisi economica. E da Roma è tutto. Grazie dunque a Vincenzo Miglietta, e di riforme soprattutto economiche naturalmente si parlerà oggi anche a Parma, dove inizia l'incontro organizzato da Confindustria Libertà e Benessere, l'Italia al futuro, oggi e domani. Il direttore del centro studi di Confindustria, Luca Paolazzi, intervenuto questa mattina a 9 in punto. L'ombra grossa che abbiamo osservato in questi anni è il PIL pro capite, che dal 2000 al 2009 è diminuito addirittura del 4%. Certo, c'è stata una grandissima crisi in mezzo, ma prima non cresceva. Nel confronto internazionale abbiamo perso posizioni sia di competitività sia proprio anche di capacità economiche, di condizioni di vita. Gli imprenditori lo sanno bene perché queste sfide si rivolgono anzitutto loro. Il problema è che il resto del paese li segue poco, e questo è quindi che viene chiesto al resto del paese, di correre assieme, di partecipare assieme, liberando le risorse che ci sono, le risorse imprenditoriali, le risorse umane, le risorse anche finanziarie, che in questi anni sono state bloccate da una serie di vincoli, da riforme mancate. E si è parlato, il Presidente della Repubblica ha parlato anche di federalismo. Su questo oggi c'è stato l'annuncio di una sperimentazione importante a Milano. In una conferenza stampa ci colleghiamo in diretta con Giovanni Capuano. Giovanni. Sì, buongiorno da Palazzo Marino, dove in attesa dei decreti attuativi il federalismo fiscale muove i primi passi con l'obiettivo in questa prima fase di sperimentarne l'impatto sul territorio e sugli enti e locali. E qui da pochi minuti il sindaco di Milano Letizia Moratti, il presidente dell'ANCI e Chiamparino hanno firmato un protocollo d'intesa proprio per lo studio degli effetti che l'attuazione del federalismo fiscale avrà sui comuni. Sotto osservazione nei prossimi 3 anni ci sono in particolare i costi, il monitoraggio delle spese, analisi dei sistemi di ottimizzazione della macchina burocratica, di tutte quelle funzioni che i nuovi comuni, quelli nati dal federalismo fiscale, dovranno adempiere. Quello che ne uscirà sarà un profilo standard, il secondo dopo la città di Roma, che servirà poi per regolare i trasferimenti per tutti i comuni da parte dello Stato. Quello che insomma sarà il costo reale del federalismo fiscale anche sulle tasche dei contribuenti. Si inizia da Milano, poi firmerà anche che a Roma nel corso del 2010 arriveranno, ha annunciato Chiamparino, anche altri comuni, ed è di fatto il primo vero passo del federalismo fiscale. Si parla molto dei costi, da quest'anno a Milano si comincerà a calcolare questi costi. Da Palazzo Marino è tutto, linea allo studio. Grazie dunque a Giovanni Capuano. Noi ci spostiamo all'estero, iniziamo dalle questioni delle atomiche e da Israele, strappo del primo ministro Netanyahu. A 3 giorni dall'inizio dei lavori, Netanyahu ha fatto sapere che non parteciperà alla conferenza internazionale sul nucleare voluta dal presidente americano Barack Obama. Israele sarà rappresentata a Washington dal suo vice ministro per l'energia nucleare, Dan Meridor. Una defezione preventiva, secondo i media israeliani, per i quali il forfait del premier si spiega col timore che l'incontro possa trasformarsi in un'occasione per mettere lo Stato ebraico sul banco degli imputati, in quanto unica potenza regionale a non aver firmato il trattato di non proliferazione. Secondo indiscrezioni filtrate dal gabinetto di Netanyahu, nelle ultime 24 ore la Casa Bianca avrebbe comunicato a Gerusalemme che diversi paesi arabi, Egitto e Turchia in testa, sono intenzionati ad allargare il tema del summit, non più solo prevenzione dunque, ma anche la proposta di un Medio Oriente libero dal nucleare. Ed è stata questa eventualità, per ora solo prospettata, a mettere in allarme Bibi. Uno Stato ebraico senza bomba nucleare, tra le altre cose, priverebbe Teheran del pretesto finora addotto per motivare le proprie ambizioni nucleari. Un obiettivo caro soprattutto agli egiziani, che guardano con timore al programma iraniano di arricchimento dell'uranio. Ma Israele, che vede nella superiorità del suo armamento una garanzia di sopravvivenza, con questa defezione importante ha già fatto capire con chiarezza qual è la sua posizione. Virginia Di Marco, GR24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme. Ci spostiamo in Thailandia, dove la crisi si sta facendo sempre più dura. I manifestanti in camicia rossa che chiedono le dimissioni del governo thailandese hanno messo a segno un'altra piccola vittoria oggi, quando in aperta violazione dello stato di emergenza in vigore nella capitale hanno marciato verso la sede della loro televisione. People TV, un canale vicino all'opposizione, non trasmette più nulla da giovedì sera, quando la polizia ha fatto irruzione nella sua sede e ha sequestrato gli impianti per le trasmissioni satellitari. Quando oggi i manifestanti si sono presentati ai cancelli, hanno trovato ad attenderli le forze di sicurezza, che li hanno respinti una prima volta ricorrendo a gas lacrimogeni e idranti. Al secondo tentativo però i dimostranti sono riusciti a sfondare il cordone ed entrare nel cortile dell'emittente, che continua però a non poter trasmettere. A quel punto la polizia si è allontanata, confermando una volta di più che il governo, per il momento, preferisce non arrivare allo scontro frontale con i manifestanti, che da oltre 3 settimane sono accampati in 2 diversi quartieri della capitale e che chiedono a gran voce le dimissioni dell'esecutivo. Marco Masciaga, GR24, Sole 24 Ore, New Delhi. In Kirghizistan sale intanto il numero delle vittime degli scontri dei giorni scorsi, sarebbero 76 morti e 1500 i feriti. Il governo provvisorio di Bishkek ha annunciato che il fratello del deposto presidente Bakiyev, che era a capo del servizio di sicurezza del presidente stesso, è ricercato perché è ritenuto responsabile delle vittime negli scontri. Oggi lo stesso Bakiyev si è rifiutato di dimettersi e si è offerto di intavolare colloqui con quello che ha definito governo temporaneo. Nel frattempo però si è rifugiato nella città di Osh, nel sud del paese. Torino si prepara ad accogliere le migliaia di pellegrini, forse 2 milioni, che a partire da domani renderanno omaggio alla Sindone per la nuova ostensione. Il 2 maggio arriverà anche il Papa. Il telo che sarà possibile vedere dopo appunto l'ostensione del 2000 è stato sottoposto a 10 anni di restauri, come racconta Katia Caramelli, il professor Bruno Barberis, direttore del Centro Internazionale di Sindonologia. Nel 1992 l'allora arcivescovo di Torino e custode pontificio della Sindone, Cardinale Saldarini, nominò una commissione di scienziati a livello internazionale dandoci il compito di studiare come fare a migliorare il modo di conservare la Sindone. Per cui nel decennio 1992-2002 sono state apportate una serie di migliorie al modo di conservare la Sindone, a partire dal fatto che la Sindone oggi non è più conservata arrotolata come era all'epoca su di un cilindro, come è rimasta dal 1600 fino a pochi anni fa, fino ad allora, ma completamente distesa su di un piano orizzontale per evitare che la formazione di nuove pieghe ad ogni arrotolamento e srotolamento potessero disturbare la visibilità dell'immagine. In secondo luogo sono stati tolti quei materiali che servivano per le ostensioni manuali del passato, come un nastro di seta azzurra che la circondava e i teli rossi che la coprivano in occasione degli arrotolamenti, e come ultima operazione è stato fatto nel 2002 un restauro conservativo che è consistito nell'asportazione dei rattoppi che erano stati cuciti sulla Sindone nel 1534 per riparare i danni provocati dall'incendio di Chambéry di 2 anni prima, ed è stato sostituito il telo d'Olanda cucito sotto la Sindone sempre in quell'occasione per consentirne appunto la conservazione dopo i danni dell'incendio. Ebbene, questo ha fatto sì che innanzitutto la Sindone oggi possa essere vista esattamente come era prima di questi rattoppi, che oggi non sono più necessari perché la Sindone è conservata distesa e non arrotolata. E inoltre ha permesso di asportare un'abbondante quantità di polvere carbonizzata proveniente ancora dall'incendio di Chambéry, che era rimasta pizzicata sotto alle toppe e che in parte si era sparsa sul telo inquinandolo. Le 13:16 minuti, nella prima parte del giornale radio abbiamo parlato del vertice italo-francese, abbiamo parlato delle parole del Presidente della Repubblica sulle riforme, siamo andati all'estero per lo strappo di Netanyahu sul nucleare, adesso ci occupiamo di terrorismo internazionale. Con le minacce arrivate da Al-Qaeda per i mondiali di calcio e per la squadra azzurra, il nostro inviato in Africa. A 2 mesi dal calcio d'inizio dei primi mondiali africani, la minaccia di Al-Qaeda nei confronti delle squadre nazionali dei maggiori paesi occidentali, Italia compresa, aggiunge ulteriori elementi di tensione sul torneo. L'Africa intera considera la manifestazione una vetrina e tutte le notizie che riguardano questa grande sfida sono seguitissime, soprattutto qui in Africa occidentale, dove vi parlo e da dove partiranno 4 delle 6 compagini africane qualificate. Mentre la minaccia islamista si profila sullo sfondo, Pretoria deve però intanto fare i conti con i rigurgiti della crisi razziale, riaccesa dall'omicidio del leader del Partito per la Supremazia Bianca, Eugène Terblanche. Oggi i funerali circondati da migliaia tra poliziotti e soldati, uno schema che rischia di diventare ricorrente nelle prossime settimane. Gigi Donelli, GR24 Sole 24 Ore, Accra, Ghana. Solido, non c'è stato nessun aiuto da parte del governo che si è e quella necessario. Che sentite naturalmente è la diretta della conferenza stampa di Silvio Berlusconi e Nicolas Sarkozy, che è ancora in corso. Appena detto Berlusconi che è un dovere e un interesse dare un supporto alla Grecia per la sua situazione economica. Per quanto riguarda Sarkozy, in apertura di conferenza stampa ha detto che dal governo di Silvio Berlusconi, con la scelta del nucleare, c'è una decisione storica che avvicina Francia e Italia. Questo quanto per il momento. Nel frattempo sugli immigrati arrivano nuove critiche dal Vaticano al governo. Ci racconta in diretta tutto Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno. È così, la Santa Sede in questo caso contesta l'accordo siglato tra Italia e Libia per il respingimento degli immigrati. Viola i diritti umani perché non si può espellere chi, tornando nel suo paese, rischia la morte, la tortura o i trattamenti disumani e degradanti. A dirlo è nello specifico l'arcivescovo Agostino Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio per la Pastorale dei Migranti. In particolare Marchetto critica la decisione italiana di intercettare in mare gli immigrati respingendoli forzatamente in Libia, come previsto da un accordo bilaterale con quel governo, cioè senza valutare la possibilità che vi fossero tra di loro rifugiati o persone in qualche modo vulnerabili, senza valutare che in Libia esistono centri di detenzione dove le condizioni sono degradanti. Sul tema dei respingimenti in mare sono intervenuti oggi anche i gesuiti, che parlano di prassi ormai abituale sulla quale è calato un grave silenzio. A dirlo è Padre Lamana, direttore del centro Stalli che assiste i rifugiati e richiedenti asilo, centro che oggi ha presentato il suo rapporto annuale, una fotografia drammatica nello stesso tempo paradossale, perché da una parte diminuiscono i richiedenti asilo, dall'altra aumentano le domande di aiuto al centro. Ma sentiamo il gesuita. Abbiamo vissuto un contesto di forte difficoltà per una mancanza onesta di voler governare il fenomeno dell'immigrazione, all'interno di esso con attenzione particolare ai richiedenti asilo e ai rifugiati. La prima schizofrenia che ci preoccupa è affermare la volontà di tutelare il diritto all'asilo politico e mettere in atto dei respingimenti. In particolare, dati più significativi: dal 2008 al 2009 il ricorso alla mensa del centro è aumentato del 33% e le richieste di alloggio del 60%. E da Roma è tutto. Grazie dunque anche ad Alessandra Schepisi. Intanto in Vaticano tornano ad accendersi i riflettori sulle vicende di abusi e spunta un nome nuovo, il nome del predicatore della Casa Pontificia. Lo scorso 2 aprile, parlando accanto al Papa, aveva paragonato la campagna di stampa sulla pedofilia nella Chiesa con gli aspetti più vergognosi dell'antisemitismo, parole poi corrette dopo le reazioni polemiche delle comunità ebraiche e non solo. Ora il nome di Padre Raniero Cantalamessa, predicatore della Casa Pontificia, spunta anche nel processo che a Bari vede imputato Vito Carlo Moccia, inventore del metodo Archeon e presidente dell'associazione Sacred Path. Con lui altre 10 persone sono accusate di associazione a delinquere, truffa, violenza privata e maltrattamento di minori. Dell'associazione Cantalamessa sarebbe stato di fatto il sostenitore più autorevole, recitando messa in almeno 2 occasioni per Moccia e i suoi discepoli e poi parlandone più volte nella sua trasmissione televisiva A Sua Immagine, trasmessa da Rai 1. In varie interviste in passato Cantalamessa ha sempre negato di essere stato a conoscenza delle violenze psicologiche commesse dal gruppo. Una serie di lettere agli atti dell'inchiesta e pubblicate oggi dal quotidiano L'Unità dimostrerebbero invece il contrario. Cantalamessa avrebbe ricevuto infatti almeno 2 segnalazioni, ma anche dopo queste, invece di denunciare la vicenda, avrebbe continuato a difendere l'organizzazione. Andrea Viali, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso ci spostiamo a Milano, dove è in corso una nuova protesta sopra una gru da parte di alcuni operai. Ci colleghiamo in diretta con Irene Privitera, che ci racconta tutto. Irene. Sì, Simone, la protesta è appena conclusa. Dopo circa 12 ore si conclude la vicenda dei 2 operai della Raimondi Gru di Legnano. Hanno ottenuto i 6 mesi di cassa integrazione in deroga, sono appena scesi lentamente grazie all'aiuto dei vigili del fuoco dalla gru, dove si trovavano a 60 metri di altezza dalle 2:30 circa di questa notte, l'ha appena dichiarato uno dei 2 operai, aggiungendo: abbiamo ottenuto le briciole. Scadeva oggi il termine per i 21 operai dell'azienda che si trovano in cassa integrazione straordinaria dall'aprile dell'anno scorso, quando il gruppo arabo Ramco ha rilevato l'azienda assorbendo 40 dei 61 lavoratori. In mattinata è arrivata prima l'autorizzazione del giudice del tribunale fallimentare e circa un'oretta fa ha parlato l'assessore al lavoro, formazione e istruzione Gianni Rossoni. Gli operai sono convocati per una riunione con la regione lunedì 12 e nulla osta, ha detto Rossoni, la cassa integrazione in deroga per i prossimi 6 mesi anche in caso di fallimento. E da qui è tutto. Grazie dunque ad Irene Privitera. Restiamo nel capoluogo meneghino. Il 7 aprile si è aperto il primo processo contro un writer. L'imputato è Daniele Nicolosi, in arte Bros, citato in giudizio dal Comune di Milano per il reato di imbrattamento. Ma se Vittorio Sgarbi ha detto di lui che è un Giotto moderno, il ministro La Russa addirittura una sua opera in casa, c'è chi non gli vuole riconoscere lo status di artista e lo considera un imbrattatore, appunto. La street art è da sempre oggetto di discussione. Sono molte le amministrazioni che la combattono in nome del decoro pubblico e del rispetto della proprietà privata. Era il tema del nostro sondaggio di oggi. Voi cosa ne pensate? I graffiti sono una forma d'arte? Sentiamo innanzitutto l'opinione del diretto interessato, Bros. Lungi da me dire che i muri che io ho dipinto sono anche miei, però se noi ci sforziamo di concepire appunto un luogo collettivo come il contesto urbano, c'è da dire che le facciate degli edifici potrebbero essere anche utilizzate da artisti di strada, perché no? Con uno sforzo appunto di questi proprietari che debbano apprezzare sicuramente una tipologia di arte che trova luogo soltanto e solamente in un contesto appunto urbano e quindi in un contesto collettivo, e noi non riusciamo a chiudere neanche un occhio e pensiamo soltanto alla nostra proprietà privata, e allora il messaggio che vuole l'arte di strada non potrà mai passare. Ma la vostra di opinione è diversa. La domanda: i graffiti sono una forma d'arte? I sì sono stati il 33%, i no il 67%. Dopo 3 anni alla presidenza del Conservatorio Verdi di Milano, Francesco Saverio Borrelli viene sostituito. Il ministro dell'Istruzione Maria Stella Gelmini ha scelto al suo posto l'editore Arnoldo Mosca Mondadori. La bozza di decreto che doveva riconfermare l'ex procuratore generale della Repubblica a capo della prestigiosa istituzione musicale era già pronta, ma senza preavviso sarebbe stato cambiato il nome del destinatario. Adriana Fracchia ha raggiunto Borrelli. Mi sembra anche un pochino strano dal punto di vista proprio della correttezza istituzionale che io debba venire a conoscenza di questa situazione attraverso voci correnti negli ambienti del conservatorio, ma evidentemente si è ritenuto di comportarsi così il ministro dalle sue ragioni, rientra nell'ordine normale delle cose che possono accadere. Non so quale sia la motivazione, quale sia la ragione per cui io sono stato scartato, non so se perché ho dato cattiva prova di me o perché, o se ci sono delle ragioni più sottili e meno concrete, più di appartenenza, come dire, professionale. Forse il fatto che io abbia passato quasi 50 anni in magistratura non mi rende particolarmente bene accetto alla forza politica attualmente in maggioranza, non lo so, bisognerebbe chiederlo in ambienti ministeriali. Questa dunque l'opinione di Borrelli. Abbiamo sentito 3 storie che arrivano da Milano. Passiamo ad una storia che arriva da Napoli, perché la televisione festeggia oggi una trasmissione dalla durata record, è la soap opera italiana più famosa. 3.000 episodi, un primato unico nel panorama della serialità televisiva italiana. Lo festeggia oggi Un posto al sole. Un nuovo giorno è qui. Ma perché tanto successo? Lo abbiamo chiesto a Marco Mele, giornalista del Sole 24 Ore, che a fine aprile sarà in libreria con Un posto al sole, il libro. Perché è unica? Perché non esiste al mondo una soap opera radicata in una città come Napoli, che a sua volta è unica al mondo. Perché non è solo melodramma, ma è anche commedia. E perché è attenta sempre al suo interno ad avere i temi sociali collegati all'intreccio narrativo. Di Napoli ha raccontato le contraddizioni, i conflitti, la criminalità organizzata, la tematica dell'immigrazione, famosa nelle prime puntate del medico Luca De Santi che sposa un ex prostituta di colore che viene ammassata sull'altare dalla camorra. Poi ci sta gli attori, perché ha dei grandi attori di teatro napoletano come Marzio Norato e Patrizio Rispo, quindi ha preso anche questa tradizione che è il teatro di Eduardo, che è Totò, è intrecciata con 1000 figli alla città. E Marco Mele sfata anche un mito: Un posto al sole non deriva da un format straniero. Molti pensano sia la versione italiana del format Neighbors, cioè vicino. In realtà no, chi ha creato la Bibbia in Un posto al sole, cioè ha messo le basi per la soap opera, lavorava a questa fiction, ma i vicini di casa in Australia sono una cosa completamente diversa da un condominio napoletano. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. I motori, scatta stasera con le prime prove libere in notturna sul circuito di Losail in Qatar il Motomondiale 2010, caccia aperta al titolo di Valentino Rossi. Una poltrona per 4. Il motomondiale che scatta in notturna a Losail vede il solito poker d'assi a giocarsi l'iride. Valentino Rossi è il favorito d'obbligo, dominatore dei test invernali e a caccia del 10° titolo iridato. Il nemico, Valentino, ce l'ha nell'altra metà del box Yamaha, in quel Jorge Lorenzo che l'anno scorso l'ha fatto sudare, che stavolta punta al bottino grosso, se solo riuscirà a non infortunarsi come già gli è capitato in allenamento a febbraio. Ma la sfida più stuzzicante è quella che arriva da Borgo Panigale ed è firmata Ducati, con Casey Stoner che dopo le sofferenze e le vittorie alternate nel 2009 è pronto a riprendersi il titolo già vinto nel 2007. L'amministratore delegato della Ducati, Gabriele Del Torchio, che domenica sarà ospite di Gianfranco Fabi in incontri a partire dalle 9. Adesso siamo qui con grandissima determinazione, la moto è fantastica, i piloti sono pronti, le prove sono andate bene. Quarto incomodo Daniel Pedrosa, all'ultima chiamata sulla onda. Poi occhio a Dovizioso, Simoncelli, Melandri, alla stella americana Spies e all'eterno Capirossi. E per tutti attenzione ai budget, per un moto mondiale che cerca una sua via low cost e deve inventarsi in fretta alternative appetibili al fascino, anche mediatico, del dottor Rossi. Dario Ricci, GR24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Ceci, con il regia Carmelo Lauricella. Il prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.